Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, con noi al telefono oggi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Con te parliamo di un argomento che è assolutamente di importante attualità, già i giornali di ieri ne parlavano ampiamente, ne abbiamo dato notizia più volte anche nei nostri radiogiornali del Veneto, a Blu Radio Veneto. Parliamo di pedemontana, perché la notizia la sappiamo, la pedemontana verrebbe pagata dai veneti con una tassa decisa dalla regione, soprattutto per chi ha una soglia di reddito superiore, credo, ai 28.000 euro. Sì, come hai detto tu Francesco, non potevamo non intervenire su questo argomento, perché è un argomento che sta a cuore in particolar modo a moltissimi veneti, in quanto oggi hanno preso sostanzialmente d'assalto la segreteria dell'Adico, manifestando il loro sdegno per una nuova tassa che il nostro buon governo locale ha deciso di istituire. E qui chiaramente si è scatenata una bagarre senza fine, perché certamente anche noi ci uniamo a quel coro di persone contrarie ad istituire nuove tasse, soprattutto un'opera che non gliene frega niente ai veneti e che riteniamo ridicola, soprattutto pensando che è iniziata 30 anni fa e si trova ancora nel 30% della sua realizzazione, e ad un costo stimato per ultimazione di 300 milioni di euro, che poi saremo abituati sicuramente a vedere in Italia. Quindi costi elevatissimi per una superstrada, chiamiamola così, a pedaggio, a pagamento, perché poi la fanno pagare a noi veneti nelle tasse, ma poi per usufruirne bisognerà pagare un pedaggio. Allora, come al solito, questa vicenda qua sta mettendo in ridicolo in particolar modo la Giunta Zaia, perché riteniamo che innanzitutto promuovere nuove tasse per redditi superiori ai 28.000 euro, quindi vuol dire coloro che per un euro non possono beneficiare dei famosi 80 euro del contributo Renzi, significa certamente andare a comprimere quello che è un potere d'acquisto già ridotto all'osso, soprattutto è un ceto sociale medio che sta sparendo, e soprattutto calcolando che l'IRPEF è un reddito che sostanzialmente vanno a colpire chi in un modo di poter evadere oppure sgravare dalle tasse, come sono normalmente i dipendenti, e in un nucleo familiare certamente vanno a colpire non solo la persona fisica, ma tutti i componenti che lavorano. E certamente è una tassa che noi contestiamo e manifestiamo l'ordegno, anche perché è fatta da un'istituzione come appunto la Giunta Zaia, che ha sempre manifestato la sua con arroganza e con fermezza la sue autonomie, la sua indipendenza, insomma si è sempre proclamata come una giunta che si è sempre prodigata per voler abbassare le tasse, quando in realtà nel Veneto paghiamo tutto e più caro. C'è anche un'altra considerazione, qualcuno mi ha detto che abita dalle parti, insomma, della pedemontana, che la pedemontana è un'opera che forse, diciamo tra virgolette, inutile, perché è stata fatta e pensata per andare a servire tutte le fabbriche che ci sono nella pedemontana, ma che poi sono distanti, cioè sono dentro ad altre vie, quindi non è che c'è una zona industriale da raggiungere, piuttosto che, e ci sono comunque delle vie che vengono utilizzate comunque e sono gratuite, no? Sì, è un'opera inutile, ridicola, che l'80% dei veneti non userà mai, che la maggior parte dei veneti non gliene frega niente, che a questo punto, se desidera tanto, riteniamo che se la possa pagare chi la desidera. Riteniamo che chi si vuole fare ambasciatore di queste opere assurde e ridicole debba veramente cominciare a capire quelle che sono le reali difficoltà delle famiglie, smettere di fare politica con slogan, ma fare politica con senso di causa, perché oggi le famiglie sono in difficoltà, non hanno più soldi per curarsi, non fanno più prevenzione, non arrivano mai appena alla terza settimana. Pensare di andare a istituire nuove tasse e far pagare una strada con i soldi dei contribuenti, quando poi sappiamo che le nuove tasse sono destinate a rimanere per sempre, pensiamo anche alle famose cise sull'Irpinia, su tante altre stupide ancora paghiamo, io penso che non si può fare politica prendendo in giro le persone, bisogna fare politica con i fatti, e oggi alle parole i fatti stanno completamente smentendo quelle che sono le capacità e gli orientamenti di questa giunta. Bisogna cominciare a pensare di fare cose serie, ricordiamoci che in Veneto stiamo subendo in maniera devastante anche la vicina di Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza. Abbiamo una sanità che insomma è efficiente, ma è la più cara, ed è efficiente perché sostanzialmente la gente non ha più soldi per andare a curarsi, quindi non è questo il motivo per cui non ci sono le code, ma bisogna anche cominciare a pensare seriamente quelle che sono le priorità dei veneti se si vuole ragionare in un ambito, in un'ottica federalista e autonoma. Certo, allora questo è il pensiero dell'Adico. L'Adico dice no a questa tassa sulla pedemontana, e invito anche gli amici che sono all'ascolto eventualmente di andare nel sito di Adico www.associazionedifesaconsumatori.it per leggere le notizie. Noi ci sentiamo tra qualche giorno, grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.